Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Il premier Berlusconi resta in ospedale, lo fa soffrire l'odio politico, dice Schifani. Bufera su Di Pietro e la Bindi, Bersani in visita al San Raffaele. Banca Italia, debito pubblico record, crescono le entrate tributarie. Pioggia e neve su mezza Italia, imbiancati 400 chilometri di autostrade. E buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Primo piano dunque alla San Raffaele di Milano, dove resta ricoverato il premier Berlusconi dopo l'aggressione di ieri. Oggi ancora visite istituzionali. Ci aggiorna in diretta Stefano Totoro. Stefano. Poco fa il professor Alberto Zangrillo, primario del reparto di rianimazione medico di fiducia del premier, ha letto il bollettino medico. Ascoltiamo dunque dalle sue parole le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. I parametri vitali monitorati costantemente si sono mantenuti stabilmente nella norma. Purtroppo l'esame TAC ha documentato la presenza di una frattura del setto nasale. Il trauma ha inoltre causato la frattura di due denti appartenenti all'arcata superiore. Abbiamo per di più riscontrato un abbassamento dei valori dell'ematocrito dovuto al sanguinamento post-traumatico. Ora sono in atto terapie antibiotiche, antinfiammatorie ed analgesiche. Queste ultime si sono rese necessarie per contrastare la sintomatologia dolorosa che purtroppo è persistente. Il professor Zangrillo ha poi confermato che il capo del governo resterà qui al San Raffaele sotto osservazione fino a domani, quando si valuteranno ancora le condizioni di salute. Intanto nel corso della mattinata in molti esponenti delle istituzioni hanno fatto visita al premier, dal presidente della Camera Gianfranco Fini, che si è trattenuto circa 20 minuti, al presidente del Senato Renato Schifani, che ha poi parlato con i cronisti. Ascoltiamo le parole di Schifani. Al di là del dolore fisico, lo fa soffrire molto di più appunto questo fatto, l'odio politico che si è trasformato in aggressione. Ritengo che sia dovere di tutte le istituzioni, di tutte le forze politiche fare il punto su questa vicenda e fare in modo che in Italia questa spirale di violenza politica si fermi. Dunque, dicevamo, esponenti della maggioranza, esponenti delle istituzioni, ma poco fa anche il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani ha fatto una visita molto breve al Presidente del Consiglio. L'ho trovato bene, ha detto Bersani, abbiamo chiacchierato, è importante ristabilire la civiltà politica e la buona educazione. A chi gli chiedeva se si tratti di un clima d'odio, se esista un clima d'odio, Bersani ha detto: clima d'odio è una parola astratta, parlerei piuttosto di gesti di odio isolati. Per il momento è tutto, a voi. Grazie a Stefano Totoro. Uno spuntone di plexiglass lungo 20 centimetri, un grosso accendino da tavolo, un crocifisso di 30 centimetri ed un soprammobile di quarzo del peso di diversi etti. Questi sono gli oggetti che Massimo Tartaglia aveva portato ieri in Piazza Duomo. In primo piano il tema della sicurezza, tra pochissimo una conferenza stampa in prefettura a Milano, c'è stata una riunione presieduta anche dal ministro Maroni, in diretta Adriana Fracchia. Sì, buongiorno agli ascoltatori che sono proprio qui in prefettura in attesa. Attendiamo veramente a minuti la presenza del ministro dell'interno Roberto Maroni, del prefetto Gian Valerio Lombardi e del questore Vincenzo Indolfi, che dovrebbero dare una informativa dettagliata e completa su quanto accaduto ieri in Piazza Duomo e anche parlare della possibilità di un rafforzamento delle misure di sicurezza. Poco prima di questa conferenza ancora attesa è intervenuta il sindaco Letizia Moratti, che ha parlato della necessità, dopo i fischi in Piazza Fontana e dopo la gravissima aggressione di ieri a Silvio Berlusconi, della necessità, ha parlato di rasserenare il clima politico. Stamani lei ha visitato il presidente Berlusconi, ha detto di averlo trovato sereno. Si è detta stupita di come lo stesso Berlusconi, invece di chiedere se avesse bisogno lui qualcosa, ha chiesto a lei se avesse bisogno qualcosa, la cosa l'ha colpita e l'ha sottolineata. Restiamo quindi dunque in attesa di sapere che cosa dirà il ministro Maroni a breve, vi daremo tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni di GR24, a voi la linea. Grazie Adriana. E sul fronte politico polemiche per le posizioni di Di Pietro e della Bindi, in diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, è ancora bufera per le parole del leader dell'Italia dei Valori Di Pietro, che ha accusato Berlusconi di istigare alla violenza, accuse ribadite ancora oggi, ma il centrodestra attacca anche la presidente dei Democratici Bindi, secondo la quale il premier non può sentirsi solo una vittima. Sentiamola. Penso che di questo clima che è venuto a crearsi nel nostro paese sia in parte responsabile anche il Presidente del Consiglio, che da mesi attacca in maniera violenta tutte le istituzioni della nostra Repubblica, la nostra Costituzione, e che io credo che tornando presto al servizio della nazione anche lui faccia come tutti noi la propria parte per riportare un clima civile di confronto. Dichiarazioni che hanno fatto insorgere tutto il centrodestra. Bersani si dissoci, dice il portavoce del PDL Capezzone, sentiamolo. Le parole di Rosy Bindi sono, se possibile, ancora peggiori di quelle di Antonio Di Pietro. È indecente che la vicepresidente della Camera, che la presidente del Partito Democratico, accusi Berlusconi di essere in qualche modo corresponsabile dell'aggressione che ha subito. Io spero che Bersani si dissoci. Se non lo farà, io credo che gli italiani si renderanno conto del punto basso a cui è arrivata l'opposizione in Italia. Ma Bersani per il momento non commenta le parole di Bindi, a condannarle anche il presidente dell'UDC Buttiglione. Berlusconi dice non fa la vittima, ma è una vittima. Da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie Alessandra. E su Facebook le pagine pro Tartaglia sono fonte ovviamente di preoccupazione. Come interpretare il comportamento dei social network? Marta Cagnola ne ha parlato con chi li usa abitualmente, come l'editore Alberto Castelvecchi. Fatti come questo dimostrano tutta la prontezza di reazione dei social network per qualunque avvenimento pubblico. Io penso per esempio, che è una cosa molto più nobile e più bella da ricordare, a quando c'è stato il terremoto in Abruzzo. Purtroppo però penso anche a una cosa meno bella, che quello che è successo in queste ore dimostra tutti i limiti dei social network. Quando noi siamo su Facebook pensiamo di essere al bar sotto casa o in una conversazione tra 4-5 amici e non ci rendiamo conto che quello di Facebook è uno spazio pubblico. Io purtroppo sono costernato dalla grande quantità di manifestazioni di giubilo, gente che inneggiava a questo accaduto, che è comunque, indipendentemente dal fatto che sia opera di uno squilibrato, un fatto molto grave, colpisce pur sempre il primo responsabile del governo italiano. Ecco, mi sembra che Facebook in questo caso ecceda per bambineria, per bambinaggine. Prima di pubblicare un titolo sul giornale ci si riflette alcune ore, molto spesso prima di pubblicare uno status su Facebook ci si riflette alcuni minuti. Dobbiamo stare molto attenti perché Facebook, come ci insegna proprio la massa di reazione di queste ore, è uno strumento potentissimo, va usato con più responsabilità. E dall'aggressione alla premier Berlusconi al clima che si respira in questi giorni era dedicato il nostro sondaggio. C'è chi, come Giampaolo Pansa, uno che quegli anni li ha raccontati da cronista, teme il ritorno della violenza anni 70. Chi invece propende per il gesto isolato di un folle. Voi come cataloghereste l'aggressione a Silvio Berlusconi? Tra queste due scelte che costituivano il sondaggio di oggi, il 58% di voi pensa che possa tornare il clima di 30 anni fa. Nella bufera politica ci sono Rosy Bindi e Antonio Di Pietro. Quest'ultimo, leader dell'Italia dei Valori, non fa marcia indietro rispetto a quando ha dato a Berlusconi dell'istigatore. Io faccio parte di quella categoria di persone che dissento totalmente dalle politiche del governo Berlusconi. Dissentivo ieri e dissento oggi, anche dopo quello che è successo. Non intendo oggi cambiare la mia opposizione semplicemente perché è successo un fatto grave che io condanno e deploro, ma che quindi deve dire che dobbiamo avallare le politiche governative. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 per votare. Radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Clima teso, dicevamo, ed anche il plenum del CSM, chiamato oggi in via straordinaria ad esprimere un parere sul processo breve, si è spaccato. Ci racconta tutto in diretta Andrea Viali. Sì, Anna Rita, la riunione del plenum del CSM è iniziata un paio d'ore fa, poco dopo le 11. Il plenum, lo ricordiamo, si dovrà pronunciare sul parere con il quale la scorsa settimana la sesta commissione del CSM ha bocciato il provvedimento, il disegno di legge sul processo breve, un provvedimento ritenuto in contrasto con più principi costituzionali dai membri della sesta commissione. Una decisione questa che aveva già causato diverse polemiche e, come dicevi anche tu, c'è da dire che anche la riunione del plenum stamattina è iniziata in un clima molto teso e polemico, questo a causa di un intervento con il quale il consigliere laico di centrodestra Anedda ha condannato l'aggressione subita ieri dal premier Berlusconi, ma ha anche contestato l'atteggiamento e le dichiarazioni di alcuni magistrati, ha fatto il nome di Spataro e Ingroia, che a suo dire avrebbero alimentato il clima di odio in questi giorni, in queste settimane, nei confronti di Berlusconi. Accuse queste che sono state subito definite inaccettabili e contestate da tutti i consiglieri togati del CSM. Alcuni di loro hanno anche proposto di sospendere l'esame del DDL sul processo breve. Poi però il vicepresidente Mancino è riuscito a riportare la calma, l'esame è iniziato, vedremo ora come si pronuncerà il plenum. A te la linea. Grazie Andrea. Ancora in aumento il debito pubblico, secondo i dati della Banca d'Italia ad ottobre si è attestato a 1.801,6 miliardi di euro. In un mese, tra settembre ed ottobre, il debito è cresciuto di 15 miliardi. In aumento invece le entrate tributarie ad ottobre si sono attestate a 28,4 miliardi di euro contro i 20,1 di settembre. Dall'estero adesso ci spostiamo in Iran per le reazioni al discorso ieri della guida suprema Ali Khamenei. Quello delle foto strappate del fondatore della Repubblica Islamica, l'imam Khomeini, è una messa in scena studiata a tavolino per preparare una repressione fuori dell'ordinario. È quanto scrive oggi il sito web del leader riformista Mir Hossein Mousavi a commento delle dure parole di ieri della guida suprema Ali Khamenei, che ieri ha lanciato in TV un monito senza precedenti contro l'opposizione, a tutto il sapore di voler farla finita con il movimento di protesta nato 6 mesi fa, scrive oggi la stampa araba. Grande apprensione tra i moderati, che invitano alla massima prudenza. Lo stesso Mousavi, definendo molto sospette le immagini mostrate in TV di manifestanti che bruciano le foto di Khomeini, ha scagionato i ragazzi dell'Onda Verde e condannato con forza gli autori. Condanna che non è servita a nulla. Stamane, come si temeva, la polizia ha circondato l'università di Teheran, bloccando centinaia di studenti in cerca dei presunti autori del criminale atto, come aveva tuonato ieri Khamenei. Adif Tahali, GR24, Il Sole 24 Ore. Sebastian Piñera, candidato della destra alle presidenziali in Cile, si è affermato al primo turno con il 44% delle preferenze, ma sarà decisivo il ballottaggio del 17 gennaio. Principale sfidante Eduardo Frei al 30%, sostenuto dalla presidente uscente Michelle Bachelet. Chiuso da 17 anni è stato riaperto il collegamento ferroviario tra Belgrado e Sarajevo. Il primo espresso 451 che torna a collegare Belgrado e Sarajevo è formato soltanto da 3 vagoni ed ha a bordo 17 passeggeri. Però per la prima volta dopo tanti anni ha percorso tutta la linea che fu gravemente danneggiata dai combattimenti tra serbi, musulmani bosniaci e croati. Un viaggio di circa 8 ore tra le due capitali, 2 ore più lungo rispetto a prima. Chi l'ha vista infatti parla di una linea ferroviaria in cattive condizioni. I passeggeri poi lamentano la mancanza di riscaldamento sull'espresso 451, che prima impiegava 6 ore, aveva tendine ricamate alle finestre e una giovane hostess in ogni vagone. Simbolo dell'età dell'oro che attraversava la Jugoslavia negli anni 70-80, era frequentato soprattutto da uomini d'affari e sciatori diretti alle piste serbe. Oggi bisogna accontentarsi. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E 13:17, ancora una buona giornata dalla redazione, da Anna Rita D'Ambrosio. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato del premier Berlusconi, delle sue condizioni di salute. Per il momento resta in ospedale, lo fa soffrire l'odio politico, ha detto Schifani, che tra i tanti politici oggi è stato in visita al San Raffaele. C'è stato anche il presidente della Camera Fini e anche Bersani. Bufera però sulle parole di Di Pietro e della Bindi. Abbiamo parlato anche dei dati di Banca Italia diffusi questa mattina, debito pubblico record, crescono le entrate tributarie. E adesso, come detto, andiamo a Napoli perché poco fa è stata emessa la sentenza su Cacciopoli. In diretta Paolo Picone. Paolo. Sì, buongiorno. Allora, da pochi istanti è stata emessa la sentenza sul primo processo di Calciopoli, dove erano indagati tra gli altri l'ex amministratore delegato della Juventus, Giraudo. Allora, per Giraudo e l'arbitro Lanese e l'arbitro Pieri, la sentenza di associazione a delinquere con 2 anni di reclusione e 20.000 euro di sanzione amministrativa. Condannato a 2 anni anche l'arbitro Dondarini, non per associazione ma per frode sportiva. Questo per il momento sono i primi dettagli sulla sentenza, ulteriori dettagli più tardi quando avremo tutti i documenti della Corte. Grazie, grazie a Paolo Picone. Altro tema in primo piano, e torniamo a questo punto all'estero, sono i lavori di Copenaghen. Il negoziato, infatti, proprio oggi entra nella fase di ufficialità con l'arrivo dei ministri. Intanto ci sono stati i primi problemi proprio nella giornata di oggi. In diretta Gigi Donelli. Gigi, che cosa è successo? Rita. Beh, succede che effettivamente stiamo entrando nella fase finale. Mancano 4 giorni almeno sulla carta per firmare un qualsivoglia documento, e quindi paesi africani che già da giorni si oppongono alle linee indicate dalla presidenza danese puntano i piedi. Qual è la questione? Si parla di Kyoto, cioè gli africani sospendono e minacciano di sospendere la loro presenza a livello ministeriale perché chiedono che si chiarisca definitivamente la posizione della convenzione su Kyoto. Cercando di tradurlo, significa Kyoto contempla tagli molto precisi per i paesi ricchi, non per quelli poveri, e contempla soldi, importanti finanziamenti per il trasferimento dell'economia dei paesi poveri da un mondo, diciamo, a carbone a un mondo a energie rinnovabili e altro. È chiaro che si sta entrando dunque nell'elemento nodale. L'Europa sta, gli Stati Uniti, scusate, stanno mettendo in discussione questa architettura, in particolare perché tra i paesi in via di sviluppo c'è la Cina. La Cina quindi è un gigante economico o è un paese in via di sviluppo, come dicono e ricordano i cinesi, dicendo abbiamo 150 milioni di poveri. Stiamo forse arrivando al dunque. Gigi, ma questa posizione africana dal punto di vista dei negoziati che conseguenze può portare? Qualcuno dice che sono stati sospesi, non sono sospesi i negoziati, c'è un forte attrito tra paesi ricchi e paesi poveri. Se posso essere brutale, penso che non avrà nessuna conseguenza laddove gli stati africani rappresentano loro stessi. L'avrà, poiché l'Africa in questi giorni si associa strettamente alla posizione della Cina e dell'India, e sicuramente senza la Cina e senza l'India non si chiude nessun accordo. Grazie a Gigi Donelli per questi aggiornamenti sulla conferenza sul clima in corso di svolgimento a Copenaghen. Noi torniamo in Italia e parliamo di maltempo, perché è arrivata la neve. Da ieri sera in bianca circa 400 km della rete autostradale italiana, diverse zone della pianura padana, le alture appenniniche e la zona dell'Aquila, dove questa mattina è stata decisa la chiusura di tutte le scuole. Per il momento non sono segnalate disagi sulle strade, come avete sentito tra l'altro nel nostro appuntamento con la viabilità, ma gli automobilisti iniziano a preoccuparsi. Come ogni inverno, anche quest'anno è arrivata la neve. Al momento la situazione è tranquilla, ma come ogni anno, pendolari e automobilisti si domandano. È stato predisposto il piano di emergenza? Ci sono gli spargisale e il sale? Tutto previsto, nessun problema, assicura Autostrade per l'Italia, e rende noto che già da ieri sono stati mobilitati oltre 250 mezzi spargisale e spazzaneve. La situazione viene monitorata dalla Polizia Stradale, che raccomanda a chi è in viaggio di tenersi informato e di fare attenzione. Rassicurazioni arrivano anche dall'ANAS. Il piano neve è già stato attivato, ci dice Dino Vurro, responsabile manutenzione Italia Centrale. Noi cominciamo con la predisposizione dei sistemi antighiaccio e antigelo nei giorni precedenti a quelli in cui immaginiamo che possa arrivare una nevicata. Poi abbiamo un centro di manutenzione per la neve in ogni regione italiana. In quasi tutte facciamo un servizio interno o un servizio misto, cioè con mezzi nostri e con mezzi che noi prendiamo con degli appaltatori per il periodo invernale. Quindi abbiamo un'efficienza storica sulle nostre strade, e grossi di servizi sulla rete ANAS a memoria non ce ne sono stati. La memoria corre al gennaio 2005, gli automobilisti intrappolati sull'autostrada strada A3. Ci fu un evento eccezionale con nevicate persistenti e con la concomitanza imperizia di molti automobilisti e soprattutto camionisti. Tenga presente che in Italia c'è un fenomeno nuovo che da alcuni anni si sta affacciando, quello dei conduttori di veicoli pesanti che sono extracomunitari prevalentemente nel Nord Africa, i quali probabilmente non hanno grande dimestichezza con la neve e col montaggio delle catene. Quindi si sono messi di traverso tanti di quei mezzi pesanti in quell'occasione che poi la nevicata ovviamente ha travolto tutto. Come ogni anno, gli automobilisti incrociano le dita. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo in Sicilia. Centinaia di operai della Fiat e delle aziende dell'indotto sono in corteo a Termini Imerese contro la chiusura dello stabilimento. Siamo aperti a chiunque voglia venire, ha detto intanto il ministro Scajola a proposito di un presunto interessamento per salvare Termini da parte del gruppo cinese Chery. E torniamo in Campania, lo abbiamo fatto, ci siamo collegati con la Campania anche all'inizio della seconda parte del nostro GR per parlare della sentenza a Calciopoli. Adesso parliamo del maxi sequestro della DIA contro il clan dei Casalesi che c'è stato questa mattina. Gli agenti hanno eseguito un decreto di sequestro al patrimonio di 5 persone considerate prestanome di Michele Zagaria, il boss latitante dal 95. Il valore dei beni sequestrato è di circa 20 milioni di euro tra immobili e denaro contante. Questo mentre nei prossimi 3 giorni si chiuderà dopo 11 anni il terzo e ultimo grado del processo Spartacus. Si avvicina il verdetto finale per il maxi processo anticamorra Spartacus. Più di 30 i ricorsi arrivati in Cassazione. Da oggi, davanti alla prima sezione penale della Corte, si avvia la discussione che nell'arco di 3 giorni dovrebbe chiudere un capitolo giudiziario scritto in circa 11 anni contro il clan dei Casalesi e i suoi capi Francesco Schiavone, Francesco Bidognetti e i super latitanti Antonio Iovine e Michele Zagaria. Un clan articolato, violento, che attraverso una gestione imprenditoriale del malaffare ha esteso la sua forza dall'Interland Casertano fino al Basso Lazio e in alcuni comuni del centro-nord Italia. I ricorsi giunti in Cassazione seguono la sentenza in appello Spartacus 1 che nel giugno 2008 ha confermato 16 ergastoli richiesti in primo grado. Parliamo di un processo che ha visto indagate complessivamente 1300 persone. Sono state celebrate 626 udienze, sentiti 508 testimoni, di cui 25 collaboratori di giustizia. Dal filone principale d'inchiesta sono partiti diversi processi paralleli, ulteriori indagini che quasi quotidianamente portano arresti e sequestri. Gli ultimi in ordine di tempo questa mattina: 20 milioni di beni sequestrati dalla DIA e 4 persone arrestate dai carabinieri di Aversa. Laura Vigiano, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Quasi 5 milioni di immigrati, 4.600 da paesi a forte pressione migratoria e 420.000 gli irregolari. Un decremento dovuto però al fatto che alcuni paesi sono entrati nell'Unione Europea. E quanto emerge tra l'altro dal rapporto sulle migrazioni presentato oggi dalla Fondazione ISMU. Il segretario Vincenzo Cesareo al microfono di Katia Caramelli. La novità e il punto da segnalare è che su 850 minori che provengono da paesi a forte pressione migratoria, oltre la metà sono nati in Italia. Dobbiamo, credo, sempre più distinguere gli immigrati nati in Italia da quelli che provengono da altri paesi. 7 immigrati su 10 sono in Italia da almeno 5 anni e 7 immigrati su 10 presentano ormai una autonomia abitativa. Questo sottolinea la stanzialità, la scelta di rimanere in Italia. La crisi economica ha inciso indubbiamente anche su questo fenomeno, tant'è che i disoccupati hanno superato la soglia del 10%, elevato ormai il numero delle aziende con titolari che provengono da paesi extra Unione Europea. Abbiamo ben 240.000 aziende con titolari che provengono da questo paese. Un dato molto molto interessante è anche quello della fruizione di banche, cioè il fenomeno di bancarizzazione, perché il 67% è titolare di conto corrente e quindi abbiamo 1.400.000 conti correnti intestati ai migrati. C'è una forte propensione al risparmio, il 70% tende a risparmiare. Chiudiamo con il calcio, ci si avvicina all'ultimo turno dell'anno solare 2009 con l'Inter sempre in testa, ma il calo delle grandi è evidente. Chiamato l'effetto Champions, le quattro italiane impegnate nella maggiore competizione europea hanno messo insieme tre sconfitte, Milan, Juve e Fiorentina, ed un pareggio, quello dell'Inter. A Natale le big della Serie A arrivano col fiato corto e la lingua in fuori e non c'è rosa ampia che tenga. Gli strascichi del doppio impegno si fanno sentire, soprattutto su chi, Fiorentina in testa, non ha alternative all'altezza dei titolari. I viola nel dopo Champions hanno perso 4 volte su 6. Il trio di testa è tutto sommato compatto, il vantaggio dell'Inter, più 5 sul Milan, più 6 sulla Juve, resta colmabile, con 66 punti a disposizione il tasso di incertezza scudetto è accettabile. Anche se per accreditarsi come rivali dei nerazzurri al trono, le squadre di Leonardo e Ferrara dovranno risolvere non pochi e non piccoli problemi. Il Milan deve recuperare brillantezza fisica e pescare dal mercato quella pedina, si parla di Pandev, che aumenti la qualità dell'attacco sulle fasce. La Juve deve ritrovare fiducia dopo la doppia sberla Bayern-Bari e ricucire lo strappo fra la componente brasiliana dello spogliatoio ed il resto della squadra. Ferrara non rischia, almeno per ora, mentre per il futuro si fanno i nomi di Marotta e Bettega. L'Inter dunque può sorridere nonostante il crescente nervosismo di Mourinho e di 4 punti in classifica in meno rispetto allo scorso anno. Le altre stanno decisamente peggio. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, grazie in regia Fabio Cantadori. Adesso c'è Buongiorno America, il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.